trovato di fronte ogni presunta purezza morale. E come smascherarla se non con un metodo intrinsecamente conflittuale? Vorrei avere un'intimità, ma spesso una promessa non mantenuta. L'importante allora è fuggire dal gossip verso la realtà più cruda. Verso ad ogni sorso l'oblio di chi beve annulla tutto questo. Dimenticavo che ad ogni brindisi si brinda con e non per il pretesto. E che un genio non si educa direttamente. Come può un mito insegnare a non avere miti? Oggi che la disincarnazione dei problemi raddoppia il ruolo dei concetti. Non solo l'uomo ha bisogno di dare un senso, come ha sempre fatto, ai fatti crudi, crudeli e freddi. Ma non trovandosi più quegli stessi fatti davanti, l'entropia semantica allontana il senso e rende i drammi tanto profondi quanto distanti. Che si tratti di risorse o di finanza, per troppi nemmeno sbatterci la testa oggi abbastanza per comprendere ogni istanza. Con speculazioni chiuse in una bolla, non è solo un'elite che ci usa e ci controlla, ma gli intrecci di logiche di cui questa folla ci affolla. Zitto, zitto, il conflitto si nasconde. Uscire dalla caverna e procurare nuove ombre. E non si sfugge facilmente quanto sei ricercato. Puoi avere tante idee, ma mai quanti prodotti e aggiornamenti in un supermercato. Non ho la tele da anni, e se me la fanno guardare mi nervosisco. Tu la concepisci come inferiore, da usare per spegnere il cervello, mentre io la concepisco come superiore, da usare rigorosamente a cervello acceso. Sto in agguato quando qualcuno parla più di me, ed è sicuro che è un'impresa. Spesso il consiglio è più invadente dell'offesa. Questa almeno può essere un forte distacco, mentre il primo una fiacca pretesa d'intesa sottintesa. Se pensi al conflitto come una cosa che inizi tu coscientemente, dimentichi che i conflitti in cui sei già schierato inconsapevolmente. Sono in agguato da ogni sfumatura dell'archetipo hardcore. Oggi che rassicura il linguaggio grezzo duro, senza mezzi termini della Lega Nord. Non solo mezzi termini, né infinitesimi. La mia verità è mezza ai termini, in una fusione di piani causata dai loro infiniti riverberi. Alcuni li percorrono nella composizione, quando un collage testuale casuale si decompone per un'implosione che riverbera. Qualcuno ha detto scriver dinamite, righe di un testo che quando servirà esploderà e poi si perderà.